Magazine compie un'indagine sui veleni. La radice della parola inglese poison deriva dal latino potare, cioè bere. Le pozioni d'amore d'un tempo vengono ancora impiegate oggi, ma per scopi più letali. Che cos'è però in realtà un veleno? È una sostanza che provoca infermità o morte per via chimica. In questa ricostruzione, una giovane donna arriva in ospedale, in preda a convulsioni. Le manca il respiro, quindi il suo cuore cessa di battere. Per 2 ore i medici tentano di salvarla, ma senza successo. Più tardi, l'autopsia rivelerà un decesso per avvelenamento. Quello che si sa sui veleni non è tutto negativo. Essi possono essere impiegati anche per meglio combattere il dolore. Gli antidolorifici più potenti noti alla medicina sono la morfina e il dimorol, ma essi possono causare dipendenza e dare luogo a gravi effetti indesiderati. Il veleno dei serpenti offre una soluzione. Il cobra dell'India è 40 volte più mortale del cianuro, ma il rettile più temibile di tutti è il mamba verde africano, 4 volte più velenoso del cobra. Sebbene sia possibile estrarlo solo in quantità limitata, il veleno del mamba è il migliore. Dato che la tossina allo stato liquido rimane attiva solo per pochissimo tempo, è necessario liofilizzarla. E sapevate che un grammo di questo veleno vale più di un grammo d'oro?